il cappello di Michael Jackson. Ma quanto ha dormito? Un'ora? Un giorno? Una settimana? Apro gli occhi ma non c'è luce. Ci sono nuvole, il mare è grigio. Non riesco a capire che ora sia. Mi sembra di aver dormito un mese. C'è uno specchio su questa barca. Non me ne ero mai accorto prima. C'è sempre stato? Difficile pensare che ce l'abbia messo qualcuno. Eppure sarei pronto a giurare di non averlo mai visto prima. E dall'immagine che riflette è evidente che non abbia dormito affatto bene. Guardo il mare, non posso fare altro, visto che, a parte il cielo, non c'è molto altro da vedere qui. E il cielo che guarda adesso è troppo compatto, uniforme, un blocco di nuvole, di cemento che sembra abbia deciso di non volersene andare. Ma anche il mare non è che sia sto granché, grigio come le nuvole. Non potrebbe essere altrimenti d'altra parte. Difficile pensare che sia lo stesso mare di Marina di Ascea, dove sono cresciuto. Questa piccola preziosa perla del Cilento, vicino al Palinuro, è poco lontano da Camerota. È a Marina di Ascea che i nonni hanno una casa che hanno acquistato proprio quando sono nato. Insomma, alla mia stessa età. Ricordi, ma quei giorni in cui ci svegliavamo prestissimo per andare a fare le nostre lunghe passeggiate? Il nostro momento magico. Vivere quei posti da soli, senza nessuno in giro. Goderci quei panorami mozzafiato. Proprio quando a regnare era solo il silenzio. E chi si riscorda quei momenti? Riuscivamo a stare insieme anche senza dirci una parola, senza sentire l'esigenza di farlo. Non è semplice avere una persona con la quale condividere il silenzio in santa pace. Non potrò mai dimenticare quei momenti straordinari trascorsi insieme, unici e rari. C'era poi quel bar-ristorante. Dai, come si chiama? Ah sì, la Pentola. E il profumo dei cornetti caldi che magnetizzava chiunque passasse di lì. Ecco, io ancora oggi, a distanza di anni, riesco a sentire quel profumo. Quel profumo di cornetti che sfornavano puntualmente la mattina e che rimarrà per me indelebile. E poi c'era Palinuro. Ah, Palinuro, era tutto per me. Te, papà, quando eravate ancora sposati, le bancarelle d'estate. E poi la strada, il cappello di Michael Jackson, deve essere ancora da qualche parte. Ti confido una cosa. Ricordi quando la sera allestivamo la nostra bancarella sul corso principale di Palinuro? Ecco, quella fotografia è sempre impressa nella mia memoria e rappresenta per me il momento più bello di tutta la mia infanzia. Lì ricordo ad uno quei giorni. C'eravate tu e papà. L'estate, la gente che passava, chi si fermava ad acquistare qualcosa o soltanto a dare uno sguardo e chiedere qualche informazione o consiglio. Sì, i momenti più belli della mia infanzia. Ho avuto la possibilità di vivere appieno te e papà, divertirmi, conoscere persone splendide, fare nuove esperienze. State proprio lì, a Palinuro, che spinto da te iniziai a coltivare una delle mie passioni più grandi, fare l'artista di strada. Ricordo bene che sei stata tu a spronarmi, a stimolarmi. Devi credere in ciò che ami. Mi ripetevi sempre, a prescindere da cosa sia, se hai una passione, coltivala, dalle l'acqua. Il nutrimento giusto, seguila, amala. Ecco, io ricordo anche che ormai avevo appreso qualche trucco del mestiere. Mi appostavo in posizione strategica e appena intravedevo una consistente affluenza di persone. Immediatamente accendevo la mia radio, appoggiavo il cappello a terra e, vestito da Michael Jackson, il mio idolo in assoluto, ballavo il suo repertorio. Incredibile come sia riuscito ad attirare tanta gente. In fondo era solo un ragazzino. Eppure quanto amore, quanto divertimento, quanta gioia condivisa negli sguardi di quelle persone e quanta generosità. Chi se la scorda quella volta in cui a fine serata andai a contare le monete nel cappello e scoprì che avevo guadagnato 100 euro. Un bel gruzzoletto che mi dava la carica, mi motivava ad andare avanti. Chiedetemi se fossi felice. Sì, lo ero, anche perché così potevo aiutare te e papà. Grazie a te ho potuto fare tutto questo. Grazie alla tua positività al tuo approccio, al tuo sorriso e al tuo desiderio di vedermi felice. Beh, lo ero. Per questo ti ringrazierò sempre, perché sei stata sempre molto intuitiva nei miei confronti, hai sempre capito e notato le mie caratteristiche e soprattutto mi hai spronato e spinto. E che noi eravamo speciali, l'uno per l'altro. Carmine, devi mostrare ovunque le tue doti e attitudini, perché può passare qualcuno e notarti da lì, può iniziare il tuo percorso. Il percorso e il viaggio, due parole costanti nella nostra vita, due punti fermi, il contrario di adesso, in mezzo al mare, dove al di sotto tutto si muove e tutto intorno sembra terribilmente immobile.